Era con Akio sul grosso trimotore a bordo del quale erano partiti da Nagasaki. Akio gli aveva detto che il viaggio, una volta superato il mare interno, sarebbe poi proseguito a bordo di un apparecchio più piccolo. Il trimotore era solo usato per precauzione nella prima parte del percorso. Da bordo, Aiwan guardava ora in giù verso l'isola di Kyushu. Tama, pensò, è là. La mattina era chiara. Le nebbie notturne erano svanite, Aiwan si era svegliato da un sonno pesante e felice nella sua stanza inondata di sole. Durante la notte era andato nella nebbia mandata dal cielo verso la camera di Tamà. Quella mattina di nebbie non c'era più bisogno. Tutto fra lui e Tamà era chiaro. Akio scrutava il paesaggio col binocolo. Quella, disse, è una nave da guerra. Una nave da guerra giapponese in rotta verso ovest, probabilmente diretta in Cina, soggiunse. Nel mio paese? Domandò con indifferenza Aiwan. Ora gli pareva di nessuna importanza la domanda amara di Enlan. Perché navi da guerra straniere devono venire nelle nostre acque? Noi non mandiamo cannoniere nostre all'estero. Ma non ne abbiamo, si era sentito in dovere di ricordare onestamente Aiwan all'amico. Questo non è il punto che interessa, aveva ribattuto Enlan. Dico che se anche le avessimo non le manderemmo in casa altrui. Aiwan, ricordando, pensò come in sogno: chissà se veramente le terremo in casa nostra. Avendole, ci verrebbe voglia di adoperarle. Perché mandate navi da guerra in Cina? Domandò forte ad Akio. A proteggere i nostri connazionali, fu la risposta. Poi Akio soggiunse: almeno così ci si dice. Io non sono mica protetto qui, osservò sorridendo Aiwan. Vero? Ma qui siete perfettamente al sicuro, vi trattiamo bene, noi trattiamo bene tutti. Esitò un momento e poi, tanto che qualche volta mi viene da pensare che trattiamo meglio gli altri di noi stessi. Noi giapponesi siamo molto duri con noi stessi, divorati come siamo dal senso del dovere. Ma quelle parole non avevano quasi significato per le orecchie di Aiwan, pensava. Com'era carina stanotte, al lume della candela mentre si scostava i capelli. Gli pareva di poter continuare a pensare così indefinitamente alla figura di Tama. Sognava a occhi aperti, non gli importava granché di andare lontano, pur di ricevere lettere da lei e di poterle dire per iscritto l'animo suo. Si sarebbero detti più cose per lettera, appunto perché, personalmente lontani l'uno dall'altra, non sarebbero stati distratti dalla vicinanza fisica. Per lettera avrebbero potuto comunicare meglio. Così, pensando, il tempo gli volò. Quasi prima che potesse accorgersene, l'apparecchio scese veloce su una striscia di spiaggia subitamente apparsa sotto di loro. Pochi minuti dopo, a terra, furono presi in consegna da robusti avieri in tuta azzurra che li spinsero in fretta su un apparecchio molto più piccolo. Un attimo dopo erano di nuovo in volo, ma questa volta a un'altezza così ridotta da poter vedere i contadini intenti al lavoro nei gialli campi di riso. Visto dall'alto, il paesaggio pareva una vasta, esattissima scacchiera. Questo, disse improvvisamente Akio, è un apparecchio subito convertibile in apparecchio da ricognizione. Perché tanta preparazione alla guerra? Domandò Aiwan. Ah, è la nostra filosofia. Voi volete la guerra? No, rispose Akio. Esitò come gli accadeva sovente, poi si levò gli occhiali, li pulì con cura e se li riaggiustò. Io sono buddista, disse, non credo nella necessità di uccidere. Ma se vi ordinassero di andare a combattere? Non ho ancora deciso che cosa farei. Allora, rispose Akio con un'espressione così turbata che Aiwan s'affrettò a dire: oh, non c'è bisogno di decidere, la mia domanda era sciocca. Akio non disse nulla. Aiwan non notò il suo silenzio. I loro erano discorsi occasionali. Fra sé già ruminava la prima lettera a Tama. Se avesse scritto in cinese, Tama avrebbe saputo leggere perché il giapponese classico e il cinese erano la stessa cosa e Tama del resto scriveva benissimo. Aiwan aveva visto una volta una poesia che ella aveva scritto con un minuscolo pennello di pelo di cammello su un ventaglio. Egli però non avrebbe adoperato le vecchie forme cinesi di scrittura, avrebbe cominciato invece semplicemente così: quando io ero alto in alto, librato nell'azzurro, C'ero soltanto col corpo. Il mio cuore, come un uccello ferito, non aveva mai abbandonato la soglia della tua camera. Dovevano scriversi così, con semplice franchezza, senza perifrasi inutili. Poi di nuovo l'apparecchio planò verso il suolo come una foglia. Erano su Yokohama. Aiwan fu scosso dal suo sogno. Yokohama era una città affaccendata e rumorosa. Addio giardino tranquillo, addio casa dai paraventi discreti. Aiwan si trovò cacciato su di un autobus affollato, a bordo del quale, per strade grigie e brutte, fu trasportato a una casa sorta come un fungo a furia di ammonticchiare l'un sull'altro blocchi di cemento. Le loro valigie furono gettate sul marciapiede. Seguendo Akio, scese con un salto accanto ad esse. Un portiere in uniforme s'avanzò e le raccolse. «Questi sono i nostri uffici», disse Akio. «Shio ci aspetta». Aiwan tenne dietro al compagno oltre la porta. «Non ho mai visto un edificio come questo», disse. «Architettura antisismica», spiegò Akio. Ora tutta Yokohama è a prova di terremoto dopo la grande catastrofe. Entrarono in un ufficio nuovo dalle pareti spoglie. Una giovane donna li accolse. Il signor Shio Muraki vi prega di sedere, disse, sibilando un po' con le parole attraverso i denti leggermente prominenti. Ad Aiwan, vestita a quel modo con una gonna nera e una blusa bianca come in divisa, parve bruttissima. La gonna era troppo corta e mostrava le gambe grosse e arcuate, infilate in calze nere di cotone. Ai piedi, ella portava grosse scarpe di cuoio nero, ma il volto brutto e occhialuto rivelava il sincero desiderio di rendersi utile. Disse, ancora fra i denti, «Favorite attendere un momento, ora è occupato con un signore di Nuova York». Aiwan e Akio sedettero e attesero come ospiti, ma Akio pareva assuefatto a quell'accoglienza, continuò. Quell'anno del terremoto ero andato in America per certi affari. Non ricordo bene. Sì, si trattava di un paravento laccato d'oro proveniente dal Palazzo Imperiale di Pechino. Il collezionista americano lo voleva insieme con altri oggetti. Decisi di portarlo io stesso in America. Mio padre aveva paura di spedire un oggetto tanto prezioso. Senza contare altri motivi particolari che gli facevano desiderare il mio temporaneo allontanamento dal Giappone. Partiti che fummo, ricordo che guardai Yokohama che si allontanava, appoggiato al parapetto della nave. Si interruppe un momento, poi proseguì. Sumi era venuta a salutarmi. Io guardai la linea dell'orizzonte finché potei. Sumi era da un pezzo sparita alla vista, ma io scorgevo ancora le sagome degli edifici che si levavano al cielo. C'erano molti palazzi altissimi. Accese una sigaretta e fumò un momento, poi disse: Venne il terremoto, io mi affrettai a tornare in patria. Degli edifici, nessuna traccia più. Spariti? Tutto raso al suolo, non una casa in piedi. Io dal mare guardavo sbalordito, non potevo credere, ma non c'era più nulla. E nemmeno sapevo più nulla di Sumi, che secondo la nostra intesa avrebbe dovuto restare ad aspettarmi a Yokohama. Rise brusco, ma quando la nave attraccò, soggiunse: Eccola una donna grassottella fra le rovine del molo. Era Sumi, e se c'era lei, potevo ignorare il resto. Risero insieme ora. Akio soggiunse: Senza perdere un attimo di tempo si cominciò a ricostruire, così ora ci sono di nuovo i palazzi del lungomare. Noi giapponesi conosciamo il nostro destino e non siamo certo dei vili. La porta si aprì. Favorite, prego, disse la giovane donna. Dalla porta uscì un grosso americano seguito da una figuretta sottile in un abito grigio. Era Shio e pareva il signor Muraki giovane. Bene, Muraki, diceva l'americano con un suo vocione sonoro. L'affare dipende da voi. 75.000 dollari, buona moneta americana, ma i rischi delle rotture ve li addossate voi. Non ci saranno rotture, dichiarò Shio con voce chiara e ferma. Ah, affar vostro, disse l'americano. Salute, e lieto di far affari con voi. Tese una manona rossa, nella quale, un po' controvoglia, Shio depose per un istante la sua piccola mano bruna. Quando la porta si fu chiusa dietro l'americano, Shio si asciugò la mano un po' furtivamente nel fazzoletto. Ah! disse giovialmente, rivolgendosi a Daiwan. Mio padre m'aveva scritto del vostro arrivo, esprimendosi in termini molto lusinghieri su di voi. Mi dispiace di aver avuto da fare. Oh, non datevi pensiero, disse urbanamente Aiwan. Si sentì improvvisamente timido. Shio somigliava davvero troppo al signor Muraki. Favorite nel mio ufficio. Lo seguirono in uno stanzone quadrato, dalle pareti di grigio cemento ammobiliato con uno scomodo mobilio giallo. La giovane donna servì il tè, ma non c'era tempo di guardarsi attorno. Shio già stava aprendo un pacco sulla scrivania. Guardate, disse commosso. Era una figuretta d'avorio della dea cinese della misericordia, Guan Yin. Alta una sessantina di centimetri, benigna e squisita, pareva irradiare placidità dagli occhi tranquilli e dalle fluenti vesti d'avorio. Doveva essere molto antica perché l'avorio era di un candore di crema. Ah! Esclamò Akio. Finalmente! Finalmente! Gli fece eco Shio e contemplò la bella statua. Nessuno parlò. Poi Shio disse con rammarico: Se solo potessimo tenercela! Ma deve andare in America col resto. Un museo ha acquistato l'intera collezione. La grande collezione lì di Pechino? Domandò sorpreso Akio. Shio annuì, poi chiese con voce più bassa: Ma. Ditemi, come vanno le cose nella casa di nostro padre? Non male, rispose Akio. Esitò un momento e Aiwan gli lesse negli occhi che avrebbe desiderato non averlo lì presente. Perciò prese con dignità un giornale da un tavolino e cominciò a leggere, cercando di non ascoltare quello che Akio diceva a Shio su questioni familiari. Improvvisamente lo colpirono, suo malgrado, queste parole. Ora è irritatissimo. E dice che avviserà il generale Sekhi che il matrimonio potrà aver luogo subito. Sconvolto dall'inattesa rivelazione, Aiwan rimase come pietrificato a contemplare la statua d'avorio. Essa gli stava davanti e lo fissava a sua volta enigmatica, benevola, senza età, eterna, e per un attimo gli apparve come un'ancora a cui aggrapparsi. Ma ahimè, la statua non poteva far nulla. Era la gente che poteva invece fare di lei quel che voleva. Però, fosse nel Giappone o in America, dovunque e comunque, essa sarebbe rimasta immutabilmente quella che era. Sono pazzo, pensò Aiwan, a pensare a idoli d'avorio. Quello vuole il matrimonio subito. Andate pure in camera vostra a riposare, gli disse cortesemente Shio. Grazie, con vostra licenza. Rispose Aiwan con una voce che suonò esile e lontana. Non abbiate fretta, rispose Shio. Mangiate prima. Io ho bisogno di parlare con mio fratello. Domani vi mostrerò la vostra scrivania. In questo momento abbiamo purtroppo molto da fare. Dalla Cina settentrionale affluiscono tesori. Che cosa volevano dire? Pensò Aiwan quelle parole. Di qui, per favore, gli diceva la giovane donna. Egli afferrò la sua valigia e attraversò con lei la strada. Dall'altro lato sorgeva la casa alloggio per gli impiegati, a un solo piano. Sistema antisismico, disse con orgoglio la sua accompagnatrice. Lo guidò a una scrivania dove un impiegato prese nota del suo nome. Stanza numero 55, disse. La camera numero 55 pareva una cella. Conteneva un letto, una sedia, un tavolo e un lavabo. Il pavimento e le pareti erano di grigio cemento. Aiwan si lasciò cadere sulla sedia e si prese il capo fra le mani. Doveva scrivere a Tama subito. Aprì la valigia e ne trasse la carta e la penna che vi aveva riposte quella mattina. La stanza tranquilla pareva mille miglia, mille anni lontana da ogni cosa. Tama, cominciò, sono informato di una cosa terribile. Akio dice, e scriveva precipitosamente frasi sconnesse, cercando di spiegarle che cosa doveva fare, ma che cosa poteva davvero dirle. Rinvia, fingi di essere malata, fai qualcosa. Tama, potresti fuggire. Pensa a qualche cosa e scrivimi. Non potrò né mangiare né dormire finché non avrò nuove da te. Chiuse la busta in fretta, vi segnò posta aerea e corse ad impostarla all'ufficio a pian terreno. Partita la lettera. Si sentì improvvisamente quasi mancare, doveva pur mangiare qualche cosa. Andò in un ristorante, ordinò una minestra e un po' di pesce. Aspettando che lo servissero, ricordò la lettera che aveva progettato di scrivere a Tamà, mentre sorvolava nel sole il mare azzurro. Come diversa adesso era la lettera che volava verso l'amata, forse sul medesimo apparecchio sul quale aveva volato lui quella mattina. Uno strano senso premonitore lo prese, quasi il ricordo di un terrore. Ricordò suo padre chino sul suo letto che lo scuoteva dai suoi sogni, come allora anche adesso gli parve che qualche cosa lo avesse scosso da un sogno. Quando la mattina dopo aprì gli occhi, qualcuno rideva fuori nell'atrio. Erano giovanotti pieni di allegria, li udì avvicinarsi alla sua porta e passare oltre. L'eco del loro riso gradualmente si affievolì. Udì il rumore di un tram nella strada, poi il grido di un venditore di granchi, granchi freschi, pesca mattutina. Non si alzò subito e rievocò tristemente lo stato d'animo nel quale si era addormentato. Le sue paure si erano riflesse in sogni febbrili e sconnessi, durante i quali lui e Tamà erano sempre stati sul punto di incontrarsi e sempre qualche cosa si era frapposta fra di loro. Ma tutto era irreale, timori e sogni. Tutto sarebbe andato bene, poteva ben fidarsi di Tamà, della tenace ostinazione di Tamà. Il sole che filtrava attraverso la tenda di bambù si riverberava con mobili onde di luce sulla parete. Saltò giù dal letto. Avrebbe lavorato così di lena da costringere Sciò a riferire al signor Muraki sull'eccellenza del suo lavoro. Nel qual caso, chissà, il signor Muraki gli avrebbe permesso di sposare Tamà. Suo nonno avrebbe avuto un bel dire che sarebbe stato meglio sposare una cinese. Non aveva invece sentito suo padre proclamare che la Cina e il Giappone dovevano essere alleati e amici? Pettinandosi con cura i capelli davanti allo specchio, rise silenziosamente. Era d'accordo, oh, se lo era, con suo padre. Tamà avrebbe ricevuto la sua lettera quel giorno stesso, chissà, se l'aspettava così sollecita. Forse non sarebbe andata subito da Sumì. Pensò un momento a un possibile telegramma, con la mano alla maniglia della porta. No, impossibile. Si sarebbe rimesso a lei, si fidava della sollecitudine con cui sarebbe andata da Sumì per avvertirla che sarebbero giunte delle lettere. Poteva fidarsi di Tamà. Era quasi allegro quando si diresse al ristorante per la colazione mattutina. Se Tamà si fosse valsa anche lei della posta aerea, avrebbe potuto avere risposta all'indomani. Mangiò una minestrina di riso, un uovo, dei legumi salati e ci beve sopra un bicchiere di latte americano al malto, senza saper bene che cosa ingoiava, poi si alzò, pagò il conto e attraversò la via diretto in ufficio. La porta di Sciò era aperta. Aiwan si fermò sulla soglia e tossì un poco. Avanti, disse Sciò di dentro. La sua voce era così esattamente uguale a quella del signor Muraki che Aiwan si sentì un po' scosso. Ma entrò ugualmente. Sciò era già alla sua scrivania, una figuretta minuscola e occhialuta, impeccabilmente linda, con certi rigidi baffi appiattiti sul labbro. Se non lo si guardava subito negli occhi, dava l'impressione di essere energico, dal piglio quasi militare. Ma dietro le grosse lenti, gli occhi per un giapponese erano insolitamente grandi e lo sguardo era ingenuo e mite come quello di un fanciullo. La sua aria marziale, insomma, residuo della scuola militare che ogni giapponese è tenuto a frequentare, si limitava alla superficie. Buongiorno, disse benevolmente. La mia segretaria vi mostrerà il vostro ufficio. Favorite controllare gli elenchi delle polizze di carico inerenti alle partite che aspettiamo oggi dalla Cina. Più tardi, se lo vorrete, aiuterete a disimballare la merce controllando ancora. Se avrete dei dubbi, chiamatemi e io sarò lieto di assistervi. Quando tutto sarà tolto dagli imballaggi, verrò io stesso a esaminare ogni cosa. Grazie, signore, mormorò Aiwan. Quell'ometto piccolino era così tranquillamente pieno di autorità, nonostante gli occhi infantili, che lo si obbediva di istinto. Sciò suonò un campanello e subito comparve la ragazza in bianco e nero dalle gambe arcuate. Aiwan la seguì in una sala quadrata dove 10 impiegati erano curvi sui loro scranni. Favorite, per di qua, disse la ragazza col suo solito mormorio leggermente sibilante. Indicò a una scrivania vicino alla finestra, si inchinò e disparve. Dal suo posto, Aiwan scopriva con lo sguardo un'ampia strada priva d'alberi, pulita e fiancheggiata da case piatte e da negozi aperti. Alla sua estremità si vedeva il porto in una luce azzurra e brillante, affollato di navi. Nella stanza nessuno si muoveva, il silenzio era assoluto. Guardandosi in giro, Aiwan sorprese sguardi furtivi e rapidi verso di lui. Per la prima volta improvvisamente sentì che era straniero nel Giappone e che Bongi gli mancava. In quel luogo non conosceva nessuno, tutte le teste erano studiosamente chine, nessuno si muoveva se non per aprire un cassetto o per prendere una penna. L'atmosfera era quella della più rigida disciplina. Per un momento restò sopra pensiero, poi qualcosa attirò il suo sguardo verso la porta. Era aperta e nel vano c'era un uomo che lo osservava. «Vi è stato affidato il vostro lavoro, signor Wu?» domandò l'uomo. «Sì, signore», rispose Aiwan. «Ah!» disse l'uomo. Era un ordine di lavoro. Aiwan aprì lo scartafaccio che aveva davanti. Non una delle teste presenti si era levata. 3 giorni dopo, rientrando in camera sua, trovò la risposta di Tama. «Aspetta», gli scriveva l'amata. «Dobbiamo aspettare. Sapremo presto il nostro destino». Egli leggeva con impazienza, dicendosi che c'era pur sempre quel tal proposito del vecchio Muraki. «Mia madre», continuava Tama, «conosce l'arte di rinviare le cose che non le piacciono. Ha rinviato ora e tornerà a rinviare finché...» La signora Muraki, così tacita e quasi insignificante. Era strano pensare a lei come alla persona dalla quale dipendeva la felicità di Tamà. E tuttavia, Aiwan, riflettendo bene, si sentì rassicurato. Tamà, nella casa paterna, non era sola. Corrispose con Tamà per tutta una lunga annata, spesso con impazienza, talora con ira e qualche volta nelle lunghe, grigie giornate invernali, con l'apatia che nasce dai rinvii e dallo scoraggiamento. Sapeva che non sempre Tamà poteva subito avere le sue lettere dalle mani di Sumi. Qualche volta, infatti, 5 o 6 lettere si accumulavano prima che ella potesse andare da Sumi a ritirarle. Per aver modo di leggerle poi, doveva aspettare la notte, in quanto alle lettere che scriveva lei erano invariabilmente brevi. Sempre però insistevano sul medesimo motivo. Sapremo con chiarezza qual è il nostro destino. Mia madre rinvia ancora. Bene, si diceva Iwan. Doveva accontentarsi di rinvii. Quell'anno di Yokohama fu il più lungo della sua vita. Controllava per ore, armato di matita, gli oggetti che il personale andava estraendo con cura dalla segatura e dalla paglia di riso, vasi, avori, agate incise, quarzi rosa, cristalli, ebani e mogani scolpiti, argenti intarsiati ed azzurre penne di Martin Pescatore color cielo, ma non vedeva nulla. Per tutta la primavera e poi durante l'estate si era sforzato di accontentarsi dei rinvii, ma ora, in quel principiare dell'autunno, si sentiva di nuovo dolorosamente ansioso sul conto di Tamà. Non era soltanto l'idea che le lettere di lei si fossero fatte caute, era qualche cosa di più. La settimana scorsa Tamà gli aveva scritto di diradare le sue missive e di essere più cauto nelle sue espressioni. Che cosa mai poteva significare ciò se non la paura e la sua incertezza e il suo mutamento? In buon punto si era ricordato che Tamà non gli aveva mai formalmente detto che lo avrebbe sposato. Finì col decidere disperatamente che non avrebbe più aspettato il destino di cui parlava Tamà. Doveva sapere perché ella era mutata nei suoi riguardi e senz'altro indugio si era subito messo a scrivere raccontando le sue pene e supplicandola di confidare ogni cosa a suo padre dal quale attendeva il permesso di presentarsi. Avrebbe aspettato la risposta 4 giorni. Ora il quarto giorno era arrivato e se per la sera non fossero giunte nuove, egli sarebbe partito l'indomani per Kyushu. Intollerabile attesa che le lancette dell'orologio segnassero le 6, aspettava quell'ora con un misto di divorante impazienza e di tremore. La porta si aprì e comparve Shio. I tesori erano stati collocati su grandi tavole. Shio li passò in rassegna, estasiato, con brevi esclamazioni. Toccava con le corte e tozze dita, con la delicatezza di un soffio, un oggetto dopo l'altro. conosceva ogni cosa e muovendosi mormorava: "Questo è un bianco Sung, ed ecco là un verde quale non sono mai più riusciti a fare dopo i Ming. Ah sì, ecco là il piccolo panorama di Giada. 10 anni sono stato dietro quell'oggetto." Prese un blocchetto di Giada scolpito nella forma di una montagna nevosa, ridendo e pur quasi piangendo di gioia. "Eccolo qua!" esclamò. "Niente può dire il pregio di questo oggetto. Non lo venderò a nessun americano, neppure se mi offriranno milioni. Rimarrà qui, nel Giappone. Oggetti come questi sono tesoro nazionale. Soltanto noi sappiamo apprezzarli." Heiwan guardava stupefatto. Quel CEO gli pareva un pazzo. Accarezzava il blocco di Giada, borbottando frasi sconnesse. Era rivoltante, orribile. Improvvisamente una domanda gli balenò nel cervello come una frustata. Di dove proveniva tutta quella roba? Si volse e silenziosamente uscì dal magazzino. Quando fu fuori, si aprì a braccia il passaggio attraverso la folla degli impiegati che uscivano preparandosi alla caccia del loro autobus. Tutti ridevano contenti mentre si toglievano le giacche di ufficio e si liberavano dai polsini di carta. Aiwan entrò a passo rapido nella dipendenza dove aveva la camera, varcò l'atrio e aprì la porta della sua camera. Se c'era una lettera l'avrebbe trovata sul tavolo. Bastò un'occhiata. La lettera non c'era. In cambio, pacificamente addormentato sul letto, c'era Bungee.